Incontri di Gianfranco Fabi. Le famosissime note dell'inno alla gioia della Sinfonia numero 9 di Beethoven, che è anche l'inno europeo, iniziamo l'incontro di oggi con Vito Gioia. Possiamo dire che il brano è più che adatto al nome. Vito Gioia, vi dirò fra poco che cosa fa, ma gli chiedo subito: perché quest'inno alla gioia? Perché Beethoven o perché è l'inno all'Unione Europea? Sicuramente perché è l'inno all'Unione Europea, perché è Beethoven e perché riporta anche il mio cognome, quindi mi fa comodo. Qui tutte e tre le cose insieme. Vito Gioia è amministratore delegato di Amrop, azienda leader nel settore dell'exec research, cioè dei cacciatori di teste. Possiamo ricordare anche che ha scritto un libro qualche anno fa, edito da Sole 24 Ore, Come farsi cacciare dai cacciatori di teste, che era un po' un manuale appunto per chi ha a che fare con i cacciatori di teste. Allora spieghiamo un attimo, Vito Gioia, cos'è Amrop innanzitutto? Amrop è una partnership internazionale che ha una presenza in tutto il mondo con circa 90 uffici e si occupa di executive search, quindi cerchiamo per conto delle aziende dirigenti in senso italiano, quindi amministratori delegati, direttori generali o direttori delle varie funzioni aziendali. Ecco, ma in questo periodo di crisi, di incertezze, di aziende che cercano di liberarsi un po' purtroppo, molto spesso, del loro personale, c'è ancora un mercato? Ovviamente in questo momento abbiamo molti candidati, ma poche aziende che li cercano, quindi c'è un'abbondanza di candidature. Comunque le aziende, a forza poi di tagliare, di ridurre i costi, hanno perso spesso del know-how che va rimpiazzato e quindi ci sono delle posizioni scoperte. In realtà il lavoro maggiore in questo momento è per aziende italiane verso l'estero. Quindi la maggioranza delle aziende italiane hanno presenze estere e ci chiedono di cercare numeri uno in vari paesi. Io sto lavorando in Turchia, in Cina, in Brasile, in Russia, per aziende italiane. Per fortuna almeno questo tipo di aziende salva il paese. Ecco, quindi in un certo senso le aziende cercano persone italiane che però sono disponibili ad andare all'estero, a fare esperienza all'estero, a portare appunto la capacità di queste aziende sui mercati internazionali. Sì, a volte sono degli italiani da mandare all'estero o che sono già all'estero, oppure cercano dei numeri uno locali quando è necessaria la conoscenza del mercato locale. Comunque sono aziende italiane molto innovative, molto internazionali, del Made in Italy, che vorrei ricordare non è soltanto la moda come si pensa, certo. Spesso è la meccanica, è il packaging, è l'innovazione tecnologica, questa è l'Italia. Ecco, magari torniamo poi su questo tema, sull'Italia, sulle prospettive dell'economia italiana. Io vorrei ritornare a Vito Gioia, all'inno alla gioia. Come è arrivato a fare il cacciatore di teste? Ma guardi, se provo a percorrere la mia carriera, io inizialmente, mentre ancora facevo il militare, mi ricordo che part-time lavoravo con un'agenzia di relazioni pubbliche, che all'epoca era una delle grandi mondiali, si chiamava Ruder & Finn. Mm-hmm. In questa agenzia ho imparato a coltivare i contatti, le relazioni, e quindi già da allora, mi ricordo, scrivevo in una grossa rubrica tutti i nomi di tutte le persone che incontravo. E anche collezionista di una cosa particolare. E collezionavo biglietti da visita. Quanti ne ha collezionati? Ma forse di 10 o 15 mila, li devo ancora sistemare. E poi, siccome avevo studiato ragioneria ed economia e commercio, lo sbocco naturale fu la Price Waterhouse, quindi il settore della revisione. E se posso fare una battuta, all'epoca in Price Waterhouse, che poi è qui nello stesso palazzo del 24 ore, seguivano un criterio molto semplice: se la persona era pessimista veniva mandato nell'audit perché doveva criticare il lavoro fatto da altri, se era ottimista andava nel management consulting perché doveva suggerire soluzioni, se fumava la pipa andava nel tax perché doveva riflettere sulle soluzioni fiscali. Quindi era un modo di selezione del personale, diciamo, molto pragmatico. In base alle attitudini. Direi forse poco americano. Americano, però molto concreto. Il selezionatore, per quanto mi riguarda, fece un errore perché mi considerò pessimista e quindi io fui indirizzato al settore audit. Ero un pessimo revisore perché passavo il tempo a dare i consigli alle aziende e quindi scoprì di essere un consulente più che un revisore. All'epoca nasceva il settore consulenza e io creai l'area risorse umane. Quindi da quel momento in poi mi sono interessato delle persone più che dei numeri, perché credo che i numeri li facciano le persone, non viceversa. E da lì è iniziata la mia carriera nel settore dell'executive search, che ormai sono circa 30 anni che faccio questo lavoro. Complimenti, quanti ne ha cacciati? Cacciati nel senso di cercati e collocati? Ma ovviamente ho visto centinaia di candidati piazzati, alcuni. Quel libro che lei ha nominato prima, Come farsi cacciare, nasce proprio dalla voglia di rispondere alle domande dei candidati. Tutti chiedono le stesse cose. A un certo punto mi sono detto: scrivo questo libro, leggete il libro, se poi c'è qualche dubbio, ecco, senza far nomi. Sì. Ovviamente, qual è stato il più bizzarro candidato che le è capitato di incontrare? Qualcuno che vi ha sorpreso in qualche elemento positivo o negativo, oppure qualcuno che si è presentato col frac come se dovesse andare a una cena di gara? Direi che il più sorprendente, ma assolutamente negativo, è stato un candidato di recente che ha dichiarato totalmente il falso. Quindi un curriculum falso, aziende false, referenze false, che abbiamo scoperto soltanto alla fine del processo. E questo è un signore che ogni tanto cambia nome, cambia città, cambia residenza. Ci sono anche candidati di questo tipo. E questo l'avete cacciato, nel senso? L'abbiamo cacciato, ovviamente depennato, non verrà più preso in considerazione. Cacciato da un cacciatore. Ecco, allora torniamo un po' a vedere com'è cambiata la realtà delle imprese, delle società. Ecco, lei, abbiamo fatto tanti nomi, partendo da Argo, appunto, della sua esperienza in Pricewaterhouse. Questa realtà, appunto, della consulenza, dei cacciatori di testa, è una realtà che abbiamo importato un po' dall'America come metodologie, ma anche come sensibilità forse, nel senso che c'è una dimensione italiana sia della consulenza sia dei cacciatori di teste? Questa attività di cacciatori di teste risale più o meno al 1947 negli Stati Uniti e nasce nell'ambito militare, stranamente, non nell'ambito aziendale. Poi si è trasferita in Europa, in Italia siamo nei primi anni 70, quindi la mia società risale ai primi anni 70, più o meno questa è l'epoca in cui nasce questa attività. Fino agli anni 90 era un'attività piuttosto facile, molto redditizia, perché era un'attività abbastanza rara, chiaramente. Poi sono nati i concorrenti, sono nate, diciamo, varie organizzazioni. In questo momento è diventata molto specialistica, quindi come in tutte le attività professionali ci sono le cosiddette practice, quindi ogni consulente deve conoscere un pochino meglio alcuni settori o alcune funzioni e le aziende committenti comprano questo tipo di expertise. Quindi non siamo più tuttologi come una volta, ma siamo esperti di qualcosa in particolare. Però è sempre un gioco di squadra, quindi Amrop, come altre società, hanno dei team dedicati al cliente e quasi mai il consulente lavora da solo. C'è un consulente che conosce bene il cliente, il suo stile, la sua cultura, e un collega che lo affianca perché conosce meglio quella materia, quella funzione o quel settore. Ecco, ma è un'attività che continua ad essere rivolta alle grandi imprese, oppure nella realtà italiana, che è una realtà contrassegnata dalle piccole e medie imprese, c'è un'attenzione anche magari di una piccola impresa a cercare il direttore giusto, e quindi si può rivolgere a voi anche una piccola impresa? Allora, continuiamo ad avere delle grandi aziende, sia internazionali che italiane, ma io in particolare seguo molto le cosiddette family business e quindi gestisco personalmente un progetto che si chiama Family Business Continuity, che aiuta le aziende a pianificare e gestire la continuità aziendale. Quindi è un tipo di attività che va un pochino oltre la semplice ricerca del manager. Vuol dire entrare nelle logiche dell'azienda, conoscere la famiglia, capire se ci sono dei figli che possono succedere, decidere se è il caso o meno di inserire un manager esterno e che tipo di manager si deve. Quindi è un mercato che sta crescendo tantissimo, perché più del 90% delle aziende italiane sono a proprietà familiare. Quindi ecco, in questa esperienza Vito Gioia non è mai capitato di dire ma qui invece di cercare qualcuno ci penso io, passo dall'altra parte, faccio direttamente il manager dato che ormai l'esperienza c'è. Questa è una tentazione di molti cacciatori di teste, è una convinzione assolutamente sbagliata, perché il nostro vantaggio è quello di incontrare moltissime persone esperte di tante materie e noi crediamo di essere esperti di tante cose. Quindi se lei vuole io posso tenere una conferenza per mezz'ora su qualunque argomento, ma solo per mezz'ora. Beh, come i giornalisti che sanno giornalisti spiegare molto bene cose di cui non sanno nulla. E quindi i consulenti che hanno tentato questo passaggio in azienda in genere sono falliti. Cioè il nostro tipo di esperienza non è utile per gestire un'azienda, perché noi non sappiamo gestire nulla, sappiamo soltanto gestire un progetto e valutare le persone e confrontarle con quello che ci ha chiesto il cliente, ma non sappiamo gestire aziende. Certo, gestire aziende è una cosa complessa. Ecco, in questa situazione, di difficoltà, una situazione che da qualche anno vede le aziende di fronte appunto a problemi, lei ha già accennato, una delle soluzioni è quella di cercare di andare all'estero, cosa che le aziende italiane stanno facendo, i dati sulle esportazioni degli ultimi mesi sono confortanti sotto il profilo proprio, non solo, come diceva anche lei, della moda, ma anche sotto il profilo altrettanto importante, o forse più importante, della meccanica, quindi sappiamo essere innovatori anche sul fronte tecnologico, non solo sul fronte dell'innovazione leggera, appunto come la moda o il design o i mobili e così via. Ecco, secondo lei questi segnali possono essere sufficienti a invertire un po' la tendenza di questa difficoltà economica? Si parla di ripresa nella seconda metà del 2013, lei la vede? Purtroppo sento parlare di ripresa dal 2009, 2010, 2011, 2013, spero che quest'anno arrivi. Sicuramente questa capacità innovativa è una capacità vincente. Dove siamo perdenti rispetto ad altri paesi è che non riusciamo a fare sistema. Quindi sono tante piccole realtà bravissime, leader nel proprio mercato, ma il paese non riesce a fare sistema. Se guardo a paesi come la Francia o come la Germania, spesso le loro aziende diventano grandi o sono vincenti perché è il paese che fa sistema, è il paese che aiuta. Vedo i francesi hanno anche in Italia una specie di ambasciatori, cioè io conosco moltissimi manager che lavorano per conto del governo francese per rappresentare gli interessi della Francia, cosa che in Italia purtroppo non avviene, quindi è un problema di sistema. Ecco, ma non è anche gli imprenditori che sono un po' individualisti, che forse cercano di restare un po' nel loro ambito, di controllare bene la propria impresa, di evitare appunto legami con quelli che considerano concorrenti, ma poi magari la vera concorrenza è molto di fuori, che non sulla porta di casa. Forse anche sono anche le imprese, queste family business di cui lei parlava, che devono un po' cercare di aprirsi all'esterno. Beh, sono abbastanza aperti nei loro distretti, diciamo a livello locale, dove c'è un po' una catena del valore, dove si collabora e si lavora insieme. Lo sono meno quando si parla di aggregazioni, di diventare più grandi, di collaborare con aziende più grandi, perché comunque tendono a preservare la propria azienda, il proprio orticello, evitando ingressi esterni, che avviene qualche volta per esempio con le banche d'affari, con il private equity, ma anche in questo caso l'imprenditore italiano pensa che il private equity metta i soldi ma nulla cambi, il che non è vero perché poi chi investe dei soldi ovviamente si aspetta dei risultati. Quindi ecco, in questa prospettiva forse ogni tanto può essere capitato di cercare più che una persona un'azienda, ma un'azienda di questo tipo avrebbe bisogno più che un nuovo dirigente di allearsi con qualcun altro. Sì, a volte diciamo quando c'è un buon rapporto con il committente o con l'imprenditore possiamo anche suggerire delle strade alternative, perché possiamo avere dei clienti che operano o nello stesso settore o in diversi settori che possono avere interesse a creare delle relazioni. Non è però il nostro lavoro, è più a titolo di cortesia e di buone relazioni. Buone relazioni, quindi di consulenza, una consulenza che si può estendere quindi anche ad altri livelli. Incontri. Ancora con le note dell'Inno alla Gioia, della Sinfonia numero 9 di Beethoven, riprendiamo il nostro incontro con Vito Gioia, Chairman and Managing Director del gruppo Amrop, azienda leader nel settore dell'executive search, cacciatore di teste, quindi un'azienda che si occupa di cercare le persone giuste da mettere al posto giusto per le aziende giuste. Abbiamo parlato nella prima parte anche delle prospettive della realtà italiana, delle prospettive di un'economia italiana che, al pari delle altre economie, ma con qualche problema in più forse, sta cercando di uscire con difficoltà da una crisi ormai da troppi anni presente all'interno del sistema economico. Ecco, io vorrei con Vito Gioia andare un po' a guardare ai giovani, i giovani che sono il grande problema, si dice ai giovani, si dice ed è vero che i giovani fanno fatica a trovare un posto di lavoro, la disoccupazione giovanile è in crescita, in Italia è tra le più elevate d'Europa. Ecco, che cosa possiamo dire ai giovani che entrano nel mondo del lavoro, che magari sono laureati, che vogliono cercare proprio di mettere a frutto questa loro laurea a cui hanno dato grandi attese? Vito Gioia. Ma proprio su questo tema, siccome non ci occupiamo di giovani, ma spesso volentieri io mi dedico ai giovani e vado a parlare all'università per far capire come funziona il mercato del lavoro, ci sono idee molto confuse. Il problema è che i giovani cercano il lavoro che non c'è, ma non vedono quello che c'è. Perché il mercato, come dico io, è come un negozio. Ci sono degli articoli che si vendono moltissimo, degli articoli che non compra nessuno, che restano in magazzino. Quindi ognuno di noi purtroppo è come un articolo, dovrebbe fare in modo di essere richiesto e al prezzo giusto. Quindi ci sono moltissimi lavori dove non si trovano i candidati, ma tutte le persone, avendo fatto un certo tipo di studi, avendo sognato un posto ideale, sono seduti in attesa che arrivi questo posto ideale, che forse non arriverà mai. Ecco, ma si tratta solo di lavori dequalificati, solo di lavori che magari fanno appunto, che non corrispondono a quelle che sono anche gli studi. Un professore ha studiato si è laureata in fisica, è chiaro che accettare un lavoro, diciamo così, umile forse diventa difficile. Ma guardi, il lavoro secondo me, purché sia onesto, non è mai dequalificante. Credo che non sia vincolante il fatto di aver percorso un certo tipo di studi, un certo tipo di laurea, che probabilmente deve rispondere ai nostri interessi, alle nostre vocazioni, ma possiamo fare anche un lavoro completamente diverso, purché si lavori, purché sia onesto, purché non si stia con le mani in mano. Questo è il messaggio che voglio dare ai giovani. Quindi ci sono moltissimi lavori, ho visto una statistica presentata da professor Ichino qualche giorno fa, di posti dove non si trovano i candidati, di lauree molto richieste, e quindi invece molti giovani hanno fatto per esempio scienza della comunicazione, come se tutto il mondo dovesse passare il tempo a comunicare. Mi spiace, siamo in un'azienda editoriale. Certo, però purtroppo le aziende editoriali, lo sappiamo molto bene, sono in crisi proprio per i cambiamenti che ci sono stati. Però in questo c'è molta influenza del contesto, della famiglia, dei genitori, che magari non hanno raggiunto lo stesso livello di studi dei figli, e quindi adesso ho speso i soldi, ti ho fatto studiare, che fai? Vai a fare il falegname o a fare il mio lavoro? Invece in realtà servono i falegnami, servono gli idraulici, guadagnano tantissimi soldi, molto più dei laureati. Sì, non è un mestiere facile, ma ecco, il problema è anche quello, poi, anche perché queste realtà richiedono comunque la professionalità, richiedono comunque anche il lavoro manuale, che ha una grandissima dignità, anzi che si sta forse riscoprendo, richiede comunque una professionalità, quindi non può essere così un lavoro di occasione preso così per far qualcosa. Anche questo forse la scuola dovrebbe preparare diversamente, c'è ancora un contrasto tra quello che fa la scuola e quello di cui ha bisogno il sistema economico. Beh, spesso io dico che la colpa è anche degli insegnanti, soprattutto a livello universitario e dei master. Io spesso vado a parlare all'università e cerco di spiegare che il master non è qualcosa che in automatico ti fa aumentare lo stipendio o ti fa diventare dirigente. È uno dei tanti attrezzi che metti nella cassetta degli attrezzi, se sei bravo, se ti sacrifichi, se hai fortuna, eccetera, eccetera, anche il master può aiutare. Questo però non lo dice l'università, che ovviamente vende i master, certo. Quindi è a suo interesse. Quindi bisognerebbe un po' essere più realistici, tornare con i piedi per terra e far capire ai giovani come funziona il mercato del lavoro. Fatto di domande e offerta. Ecco, sul fronte proprio dell'offerta, lo sappiamo, è molta, sul fronte della domanda, voi anche come Arbor avete fatto delle ricerche su settori in crescita, abbiamo parlato prima appunto della ricerca che hanno le aziende di persone che lavorino all'estero, che vadano all'estero a portare le esperienze delle aziende italiane, avete fatto anche delle ricerche sul non profit, il non profit è un settore abbiamo in forte crescita. Abbiamo fatto di recente una ricerca sul no profit, è emerso che è un settore in nettissima crescita, dove ci sono dei ruoli molto gratificanti, non per soldi, sicuramente non si va nel no profit per guadagnare di più. Diciamo ecco, però è... non si va per guadagnare, però si può guadagnare, sì, certo. Cioè un dirigente di un'associazione può avere uno stipendio certamente inferiore a quello di organizzazioni profit, però comunque ha di che vivere. Guardi, io un po' di anni fa cercai il direttore generale per il WWF. Il candidato prescelto era l'amministratore delegato di un'azienda pubblicitaria multinazionale, andò al WWF per guadagnare un quarto dello stipendio che percepiva nell'azienda americana. Perché? Perché sono delle organizzazioni che ti offrono come benefit qualcosa di importante nei contenuti, quindi se ci credi, se hai la vocazione, oltre allo stipendio hai qualcosa in più in busta paga. Sì, hai una motivazione, forte. La capacità appunto di pensare di essere responsabili. Esattamente. Ecco, però appunto pensare non profit ha delle posizioni che prevedono appunto delle remunerazioni che forse non raggiungeranno mai, come forse è giusto, le remunerazioni delle aziende profit, ma comunque sono remunerazioni che permettono di vivere, direi magari non agiatamente, discretamente. No, assolutamente sì, perché le profit oggi sono aziende perfettamente organizzate con tutte le funzioni, quindi a ricoprire le funzioni diciamo aziendali ci sono dei manager pagati con lo stipendio, poi c'è una grande base molto diffusa di volontariato dove non sono pagati ma lo fanno volontariamente, quindi sono delle aziende a tutti gli effetti. Ecco, sul fronte degli altri settori, settori invece profit, settori economici, quali sono le indicazioni che secondo lei in prospettiva anche potranno avere maggiore domanda di lavoro? Ma abbiamo visto da un'analisi fatta recentemente che i settori che ancora vanno abbastanza bene sono il mondo della salute, del benessere e purtroppo dei giochi e lotterie, purtroppo. Pensando al mondo della salute e del benessere, non è soltanto la sanità, ma io sto lavorando in un'azienda famosa in questo campo che sta aprendo filiali in tutto il mondo. Non è più palestra, ma vuol dire uno stile di vita, vuol dire un benessere diffuso. Quindi tutto ciò che è legato a servizi alla persona sicuramente potrà crescere. Purtroppo quando poi sconfiniamo nella sanità c'è un aspetto pubblico che rende abbastanza drammatico poi il conto economico da gestire di queste aziende. Ma come dicevo c'è un mondo tecnologico dell'innovazione, della meccanica, del packaging, del bello che è tipicamente italiano e ripeto non è soltanto moda. Ecco, ma in questo forse se un giovane appunto dovesse seguire questi consigli si dice ma allora che università devo fare? Cosa devo scegliere? Devo ancora fare l'università? Oppure vediamo gli ultimi dati recentemente hanno proprio dimostrato che c'è anche un calo di attrattività delle università verso i giovani. Allora, dirò una cosa che non piacerà ai genitori. Io farei studiare ai miei figli filosofia, però con la laurea in filosofia non trovano nessun posto inizialmente. Se vado a guardare però il profilo dei manager di successo, molti hanno fatto filosofia, comunque hanno una profonda cultura umanistica. Quindi la cultura che paga è quella umanistica, perché è quella che, a prescindere dalla situazione economica, dalle variazioni di mercato, permette di creare, di improvvisare soluzioni. È quello che serve per avere successo. Quindi anche di diventare imprenditori. Anche imprenditori. In questa fase forse con le possibilità tecnologiche che ci sono, diventare imprenditori può essere meno difficile che nel passato. E soprattutto per i giovani che sono vicini al mondo internet, ci sono tantissime possibilità. Guardi, nel libro che sto scrivendo adesso, che è rivolto ai giovani, che si chiama Opportunità di lavoro per tutti quelli che hanno voglia di lavorare, ci sono pagine e pagine dedicate a dei mestieri che io neanche conoscevo, che sono nel mondo della new economy, nel mondo internet, dove ci si può inventare un lavoro, non sono richieste grandi strutture, non c'è da aprire una fabbrica, non sono richiesti grandi soldi e si può vivere bene con questo tipo di attività. Ecco, con una grande attenzione però al cambiamento, perché è un mondo in cui i cambiamenti sono sempre più forti. E come ci si sente con i capelli bianchi? Siamo in radio ma non si vede. Vito Gioia ha i capelli bianchi, come chi lo intervista peraltro, anche se ne ha di meno. E ma, come si sente di fronte al mondo giovanile? Ma io mi sento molto a mio agio perché mi sento diversamente giovane. Sono molto vicino ai giovani, ho tre figli maschi che mi fanno sentire giovane, mi risolvono qualunque problema tecnologico e questo è un vantaggio. Frequento molto i giovani e cerco di aiutarli a capire come funziona questo mondo, perché nessuno li aiuta, hanno le idee molto confuse. Quindi sono molto vicino ai giovani, anche se per mestiere incontro solo candidati con i capelli bianchi, purtroppo, ma fa parte del mio mestiere. Quindi per concludere, sì, ci avviamo verso la conclusione, come possiamo guardare un po' alle prospettive, al di là delle previsioni statistiche dell'andamento del PIL, che comunque è importante, sempre con l'ottimismo della volontà guardiamo avanti. Ma come messaggio rivolto ai giovani direi bisogna tornare ad avere fame, no? Come diceva Steve Jobs, non bisogna accontentarsi, non bisogna avere una vita troppo comoda, perché avendo fame poi si ha anche successo, come facevano forse i nostri genitori o i nostri nonni. Purtroppo questo è un problema che secondo me toccherà la prossima generazione, quella dei nostri nipoti, che avranno fame purtroppo e avranno, ecco, successo. È importante avere fame, ma come diceva la preghiera di Tommaso Moro, dammi appetito ma dammi anche qualcosa da mangiare. Giustamente. E quindi con questa speranza che ci sia da mangiare ma anche da, appunto, da lavorare per tutti, concludiamo il nostro incontro. Io ringrazio Vito Gioia, chairman di gruppo ARAP, di essere stato con noi questo pomeriggio. Buon pomeriggio e buona domenica anche a quanti ci ascoltano, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.